Alberoni. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time. Welcome. Eccomi, eccomi. Sono pronto. Normalmente si dice sono pronto più caldo che mai. In questo caso non lo puoi dire. Più ghiacciato che mai. Ai, ai, ai. Dico, non si attenua per niente questa ondata di gelo. Fa freddo, nevica un po' ovunque. Ma va bene così. And now, your favorite DJ. Eccomi, Roby D'Antoni con voi sino alle 19. Questo è On The Road. Partiamo oggi, il primo disco ve lo voglio regalare in un cofanetto molto... Micio micio bau bau. Senti. Un disco tranquillo. Oggi iniziamo così, come un diesel. Piano piano. Primo disco affidato. Sto succedendo tutta la cosa. Affidato a Fabio Concato. Si chiama Ti ricordi ancora? E ti ricordo ancora. Le braghe corte di tuo fratello e le gambe fiori. Mamma stanca, costretta a farti un po' da padre. Me la ricordo ancora, tutta bianca. E ti ricordo ancora l'ingenuità, la tua tenerezza disarmata. Ma dentro avevi un cuore grande che batteva forte un po' per me. E ti ricordo ancora, dimmi che non è cambiato niente allora. Chissà se parli ancora gli altri. Thank you. Oggi, approfittando proprio della giornata fredda, no? Allora io immagino voi davanti a una buona tazza di tè, magari un buon libro. Preferito iniziare così in una maniera molto tranquilla, regalandovi questa poesia di Fabio Concato, davvero straordinario. Credo uno dei maggiori esponenti della nostra musica, Fabio Concato, un poeta, un artista davvero di spicco. Si chiama Ti ricorda ancora, il primo disco di oggi all'interno di On The Road con Roby D'Antoni, quindi sino alle 19, mettetevi comodi, quindi abbiamo due orette da trascorrere insieme. Dopo un disco vecchio, il flashback arriva subito, un disco nuovo. Notizia, l'abbiamo letta ieri, l'abbiamo commentata ieri, che lei, presentando questo nuovo singolo alla Super Bowl, ha fatto qualche piccola figuraccia, piccola però, stava inciampando, stava cadendo, poi qualcuno dice che ha cantato anche in playback, sta uscendo in flashback, in playback, tutto questo. Madonna però continua alla venerità di 53 anni a far parlare di sé, è già una cosa importantissima. On The Road. Lo so di aver sbagliato e so cosa dirai. Lo so di aver sbagliato e sono qui ma chi non sbaglia mai? Lo so di aver tradito, ma tradire poi cos'è? Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio. Ho una frase sopra il muro, quando l'ho scritta non lo so, non so resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che così uguale a me, è un'altra possibilità, io la voglio. Non posso farne a meno del tuo amore, impazzirei. Ma perdermi tra i sensi mi divora e io non cambio mai. Questa frase è sopra il muro, no, non la cancellerò. Posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me, un'altra possibilità e io la voglio. Che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me, è un'altra possibilità, un'altra possibilità, un'altra possibilità. Sai che potrebbe iniziare questa sorta di confronto, no? Tra le vecchie canzoni, quelle che ci ha regalato la scorsa edizione, quindi l'ultima edizione del Festival di Sanremo, con quelle che poi saranno le nuove che andremo ad ascoltare da qua a pochi giorni. Vedremo un po'. Questa era La Cruz, io confesso, una bella canzone secondo me, non bella al primo impatto, però poi entra di prepotenza. Stavo leggendo le previsioni del meteo, ragazzi, sembra quasi un bollettino di guerra. Ci sono animali in difficoltà per il freddo. Caos, treni al sud, bufera di neve ad Ascoli. Meno 21 gradi in Liguria. Poi a Roma si è aperta una voragine in strada, un palazzo è stato evacuato. A Cesena un'anziana che è stata soccorsa con scie e ciaspole. Poi a Liri inferno di ghiaccio sulla superstrada. Milano sotto zero. A Marsica paesi isolati, a Sora i vivi arrivano con l'esercito, a Venezia la laguna è ghiacciata. Dico, meno male che questo maltempo dura pochi giorni, altrimenti cosa dovremmo fare? O cosa faremo? Come saremo ridotti a fare? Mamma mia, cioè, dopo due giorni, questa è una settimana di brutto tempo, è venuta giù un po' di neve, però voglio dire, non è che poi un po' di neve può bloccare un'intera nazione, o no? Oh, cribbio. 17:22 sulla radio che ti regala la musica più bella, le emozioni che andiamo a ripescare anche indietro nel tempo, in questo caso assieme a Kim Carnes. Her hair is hollow gold, lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes, she'll turn the music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand on the side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. Canzoncina bella, beh, Davis Eyes, questa di Kim Carnes, 17:25. Non ho ancora ricordato quelle sono le coordinate per raggiungere direttamente la nostra radio, 92 32 92, prefissato allo 0921, questa è la linea più diretta per richiedere la vostra musica, eventualmente c'è la linea SMS al 335 56 37 251, o ancora di più potete sfruttare il nostro profilo Facebook, quindi CRM Piredio, e là potete richiedere la vostra musica, naturalmente mandare i vostri messaggini di saluto. Questa è la canzone, il vecchio successo di Adele. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. dicevo, già sembra vecchio perché è arrivato il nuovo di Adele. Questa era Set Fire to the Rain. E allora, prima presentarvi il nuovo singolo di Madonna, mi ero dimenticato a dire che parte il Madonna World Tour 2012 il 29 maggio da Tel Aviv in Israele, come annunciato ufficialmente da Live Nation Entertainment. Il tour, che è tour promoter ufficiale del tour, e farà tappa il 26 città dell'Europa occidentale, tra cui Londra, Parigi, Berlino, oltre che Milano. Sarà allo stadio San Siro il 14 giugno, poi a Firenze allo stadio Franchi il 16 giugno. Biglietti costano pochissimo, da 45 euro a 155 euro più prevendita. Il tour comprenderà spettacoli in palazzetti, stadi e location all'aperto, speciali come il The Plains of Abraham in Quebec, un ritorno in località di Sud America e Australia in cui Madonna non si esibisce da 20 anni. Quindi sappiate che se vi piace Madonna dovete aspettare queste due tappe, o meglio questa tappa in Italia in queste due date: a Milano il 14 giugno allo stadio San Siro, e poi si ripeterà allo stadio Franchi di Firenze il 16 giugno per questi due appuntamenti in Italia di questo nuovo tour Madonna, per l'appunto Madonna World Tour 2012, che partirà il 29 maggio. E probabilmente anche là ci sarà questa nuova canzone, poi sarà contornata anche dai vecchi successi. Andiamo a contentare Piuccia, credo, che ha mandato il suo messaggino e vuole ascoltare Don Omar. Così abbiamo accontentato anche più, cioè attenzione, adesso mi date la base, perché oggi è un giorno importante per il Vasco Nazionale. Perché Vasco Rogi, Vasco Rogi. Vasco Rossi oggi compie 60 anni, il cantautore che è nato a Zocca in provincia di Modena il 7 febbraio del 52, una vita sempre al massimo, sopra e sotto al palco, musica con dischi sempre in top 10, grandi amori, collaborazioni importanti, non ultima quella con Patti Pravo, ha scritto anche un libro, si intitola Fate quelle case che volete, ma fatelo bene, lui consigliava così. Poi tante attività anche su Facebook. E quindi tanti auguri naturalmente a Vasco, e non potevo esentarmi da farglieli e soprattutto a regalarvi questa bella canzone di Vasco. Questa è credo sia una delle ultime in ordine di apparizione. 17:35. E anche on the road, omaggio al grande artista che è Vasco Rossi. Allora, tanti auguri Vasco, e questa è Stammi vicino. Non lo so dove andrò, ancora no. Vado dove vai tu e ti seguirò, tanto no, altro da fare più, aspettavo tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo che arrivassi più. Non lo so che cos'hai, so cosa sei, quella che fa per me, è destino mai diventi quello che fa per te. Aspettavo, sai, da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo, però non mi ero arreso. vuoi, vai tu. E allora ancora tanti auguri Vasco, oggi sessantenne, che bel sessantenne, ancora le porte. Veniva, ti viene un po' di invidia, no, a commentare queste notizie, anche se non si può altro che elogiare questo popolo, perché pensate, è passato quasi un anno da quell'11 marzo, ancora un anno è passato effettivamente, da quell'11 marzo 2011 quando, ricordate quel terremoto di magnitudo 8,9 ha messo in ginocchio il Giappone, il sisma, lo tsunami e poi la successiva crisi nucleare di Fukushima. Bene, colpi che da KO che avrebbero messo al tappeto chiunque tranne l'efficienza del paese del Sol Levante che pensate è già, si è rialzato, ha rialzato la testa e già vive, come potremmo dire, una nuova vita, già è tutto pronto, tutto risolto. Tutto su, case su, strade rifatte, dopo manco un anno. E vabbè, a proposito, visto che è giornata di auguri, devo fare gli auguri a Marcella. Grazie anche a Chiara e a Gaetano che hanno richiesto questa canzone da dedicare alla sorellina che oggi compie gli anni. Bill Myers si chiama Kiss the Rain. Just don't.

I'm gonna marry the night. Leave nothing on these Tutto questo approfittando anche del nostro sito internet crmpiradio.it, dove potete richiedere la vostra musica, perché c'è un'apposita finestrella dove inviare, scrivere il titolo della canzone, inviare magari il messaggino, come nel caso di Giorgia che ha richiesto questa canzone di Lady Gaga. Mi ha anche allegato il messaggio che dice che Lady Gaga ha dichiarato di volere un figlio siciliano, però niente uomini tra i piedi. Aggiunge Giorgia: come ha ragione, vorrei ascoltare. Dai Giorgia, non essere così pessimista riguardo gli uomini siciliani, Giorgina. No, ce n'è peggio, a voglia. 18 e 9 minuti, siamo nella seconda ora insieme. Questa è On The Road, la radio che ti regala la musica più bella, CRM Happy Radio. Con voi Roby D'Antoni anche per oggi, sino alle 19 insieme. Faceva parte della colonna sonora di quei film panettone, no? Che uscivano in contemporanea con le vacanze di Natale. Brian Paris, Dolce Vita. E attenzione, a proposito di Dolce Vita, stavo leggendo che in un mondo sempre più connesso e più accettabile non essere in grado di utilizzare, anzi no, non è accettabile non essere in grado di utilizzare i propri strumenti informatici in ogni momento. Che voglio dirvi con tutto questo? Questo sarà stato il pensiero che ha spinto il designer olandese Erik de Nys a sfornare una creazione di un paio di jeans che sulle cosce riproducono una tastiera Braillers perfettamente funzionante, Sulla destra invece è attaccato un mouse, mentre da lei anche arriva il suono grazie a degli altoparlanti. Un abbigliamento non proprio comodo, ma sicuramente utile a tutti i computer dipendenti della terra. Hai capito cosa si inventano pur di vendere? C'è il jeans con la tastiera wireless attaccato, il mouse e tutto il necessario per poter connettersi. Beh, d'altronde lo sappiamo ormai, siamo un po' tutti quanti diventati PC dipendenti. Facciamo un attimo di pausa, poi saremo ancora insieme. Questa è On The Road, state lì. Questa è la radio che avete scelto, CRM. Bring the beat in. Honey, honey, I can see the stars all the way. On the window pane, I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why I'm smiling up from ear to ear. But I know, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me altre star l'hanno fatto, dichiarazione del genere, tipo se vincesse la mia squadra il campionato di calcio, per esempio, di basket, io mi metterei in costume, o addirittura è stato qualcuno che aveva detto mettevo in topless e poi non l'ha fatto. Non l'ha fatto. Invece aveva scommesso sulla vittoria dei Patriots, ma al Super Bowl ha vinto la squadra dei New York Giants. Per questo la presentatrice Maria Menounos ha pagato pegno restando in bikini al Times Square. La bella Maria, che si era presentata con un impermeabile bianco in mezzo al pubblico, e tra gli applausi si è spogliata rimanendo in costume. La sua vittoria però è stata certa, perché è davvero molto molto bella, si è presentata in perfetta forma, quindi ha deliziato un po' tutti i presenti. Lei ha pagato la scommessa, ha pagato il pegno per della scommessa, si è messa in bikini. Maria si chiama, te ve lo dico, Maria Menounos, presentatrice. You shut it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how I are, but it's weak or sick. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Bella sta canzone, uno dei grandi successi del momento, fra l'altro non poteva essere altrimenti, visto che David Guetta tutto quello che tocca lo fa diventare oro, veramente una cosa incredibile. Noi continuiamo ancora a far musica, continuiamo ancora a regalarvi la musica più bella, grazie anche alle vostre segnalazioni. 18 e 27, si chiama Alex Ubago assieme a Amaya Montero, Antonella, dove l'hai trovata questa? Si chiama Sin Miedo a Nada. Tengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho. Hasta que el sol aparezca, me voy perdiendo en tu aroma. Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por entregarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vender esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. The Road Flashback. Every Everybody needs a little time away. I've heard her say from each other, even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said, just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Sempre immaginato questa canzone, no? Perché poi a un certo punto il disc jockey doveva essere bravo. Perché dico questo? Perché intorno agli anni 80, no? C'era il momento dei lenti. E questa qua dei Chicago, I Just Say I'm Sorry, era una delle più cliccate, una delle canzoni, uno dei lenti più belli. Però il disc jockey doveva essere attento, perché immaginate, visto che il finale era così rocchettaro, immaginate se all'improvviso partiva questa cosa, mentre tu magari avevi rimorchiato, stavi ballando con una, come minimo al disc jockey arrivava una bottiglia in testa. Ci sono Giorgia e noi basta, Giorgia sola. Pure ne ho fatti, ne porto i lividi, ma non ci penso più. Ho preso ed ho perso, ma guardo avanti, sai dove cammini tu. Dimmi, ti diranno che sono una pazza, è il prezzo di essere stata sincera. Tempo ne ho perso, certe occasioni sai che non ritornano, ma fa bene lo stesso. Se la mia dignità è ancora giovane, dimmi, ti diranno che non sono ambiziosa, è il prezzo di amare senza pretesa. Io dico, lui con il tempo proprio non ci azzecca nulla. Ti richiamo fra un minuto. Stavo parlando del mio carissimo amico Rambo, che ormai dovrebbe essere già in prossimità di un, meno che poi non gli è arrivata effettivamente una chiamata così importante da perché a questo punto avevamo il collegamento con Rambo, però non vedo il segnale, quindi Rambo non è collegato, credo. No, non è collegato, quindi Rambo, come fai? Come puoi fare? Poi la gente ti aspetta, la gente mi chiede, ma chi è Rambo? Ma di dove è Rambo? ai, che forte l'amico mio Rambo. Oggi non parleremo di calcio, poi lo faremo domani. E domani c'è questo primo scontro diretto tra Milan e Juve. Poi ci sarà quello più importante il 25, credo, di febbraio, che varrà sicuramente mezzo scudetto. E poi parleremo anche di altre cose. Volevo farla assieme a Rambo, ma sicuramente, ma forse faccio proprio in diretta, sentite, e lo faccio proprio in diretta, vediamo se riesco a beccarlo in diretta. Pronto? Pronto? Buonasera. Dico, ma che buonasera, mi fai stare con l'ansia. Stavo in pensiero per me, ero. Stavo in pensiero, scusa. Io stavo a lavorare. No, vabbè, stavi a lavorare, però Rambo, se tu hai un appuntamento fisso con la radio, dico, voglio dire, metti da parte. Anzi, io ho fatto più presto possibile per te. Grazie tesoro. Ieri te l'ho messo sul mio anno, sono rimasto del tutto sul manco. Ai ai, com'è Rambo? Bene, senti freddo? Io sempre cauro, sì. Tu sei un macio, okay. Io sono stato a campo sportivo, sentire una bella aria fresca. Oggi non ci sei andato al palazzetto, no? No, prima sono andato a campo sportivo, c'era la partita, diciamo. Famosa partita. Che partita? Oggi c'era la partita. Che partita? Ti devo raccontare una cosa, secondo te, quando c'è la partita, secondo te, se le presenti, squadre non si presentano, secondo te, come rimane tu? Aspetta, aspetta, c'era una partita e nessuno. C'era la partita a riunione. Ah, e nessuna delle due squadre si è presentata. È arrivato l'arbitro, dice, ma le squadre dove sono? Ma giocavi tu con l'arbitro, mi mettevate a centrocampo. No, io sono la cacca palla. Ma come, nessuna delle due, quindi chi perdono tutte e due a tavolino o vincono campo? Hanno perso tavolino, erano tre, di noi erano tre e di loro erano zero. Ah, cioè voi eravate tre ragazzi? Sì. Ero loro, perché io sono niente. Dico, va. La racchetta palla già segnava a campo. Dico però. Hanno perso mezzo l'arbitro, aspettarsi alle 15:15. Sì, sì. Alle 15:20 scomparito. No, allora, normalmente, allora, digli all'arbitro che normalmente, tu lo sai, io. No, c'è un regolamento, Roberto. C'è un regolamento che dice che l'arbitro deve aspettare un tempo. No, c'è un regolamento. Rambo! L'arbitro deve aspettare un tempo, fatelo dire. No, c'è un regolamento, ce l'ho io. Nelle calendari scritto così. Allora è cambiato il regolamento, perché quando io allenavo i ragazzi. Se tu entro 15 minuti nel posto della distinta, alle 3:15 massimo. No, finisce. Però per può succedere un qualcosa e l'arbitro può aspettare anche un tempo, almeno fino a qualche annetto fa era così. Poi se qualcuno. No, invece niente, sono cambiato. Invece queste categorie delle ragazzine è cambiato. No, io allenavo i ragazzini, allievi, sono arrivato con gli allievi, poi hai visto la tuta che avevo l'altro giorno nella Cefaledium, no? L'hai vista? Ma te sa, abbiamo perso la partita tutte e due, se la zia tavolino tutte e due. Comunque, se non si presentano tutte e due, poi. No, ci sarà un punto di mediazione più la multa. L'arbitro ha pensato bene, dice, ma qua fa freddo, con te non ci faceva niente, a meno che tu non gli portavi. Io volevo portare a un bar, volevo offrire un caffè, aveva premuro, se ne è agito. Ah sì, di dove era? Di Palermo? Barcellona, Santo Stefano, quindi il signore ha pensato bene. Zona, prima era la zona di Calabrisera, diciamo, però si è avvicinato quella zona. È andato via. Bene. Sì, si sì, è andato. Quindi tutte e due. Sì, tutte e due come i polli. Vabbè, niente ci fa. Sì, perché un po' siamo nuovati. Certo, ma scusa, voi giocavate in casa? Sì, giocavamo in casa. Ad Avenna potevamo fare. Ecco, perfetto. Com'è Rambo? Che aria tira là a Santo Stefano? Sì, la calare buona tira. Freddo, dicevo prima, però non. Io ne sento qui, sento cavolo. Ah, perché tu sei un uomo virile, io lo so. Tu sei il desiderio di ogni donna. Sì, l'ho detto prima dove ero io prima. Sì, a palazzetto ero. Con le donne? No, loro stavano facendo allenamento, io guardavo loro. Quando ho finito di pulire il spogliatoio, giustamente poi sono un pochettino più libero. E tu prendi sempre la targa, no? Sì, il numero targo come fa fanfani. Tutti sai, sì, tu sei. Vuoi targa da pigliare, non vuoi targa da domani, tu sei un volpino, sei Rambo. Tutte le sere ascolto il tuo cosa. C'è, la replica la notte. La replica a mezzanotte alle 2, io sembra che abbia l'una e mezza per ascoltare lo stesso. È che hai ascoltato? 20 minuti? No, vabbè, ero in macchina, l'ho ascoltato nella macchina. A mezzanotte in poi. Va bene, Rambo. Allora. Vuoi ascoltare con l'amico mio, Lupo, mentre ti accucavo. Francesco? No. Sì. Senti, domani poi parleremo di calcio, visto che domani ci sarà l'incontro. Domani è oggi che recuperano Roma e Catania. Che succede io? Dovrebbe recuperare Roma Catania, no? 25 minuti, 25, ma oggi o domani? Oggi mi pare. Sai che mi dice Antonella? Cioè, sì, ciao Antonella. Rambo sente caldo perché guardava le ragazze. Va bene. Poi me ne devo andare a campo sportivo, Roberto, perché se sbatte sinistra a sinistra. No, io lo so. E poi ne parleremo domani, naturalmente, di questi impegni sportivi. Dove area tira? E qua io sai che sento un po' freddo, Ramo. Oggi dovevo andare a correre, porca la miseria, mi sono preparato due volte. Non ero pronto, sì, per andare a correre la mia oretta. Ma mattina che fai, scusa? Uguale. Io corro. Tu. Ma mattina quando ti mando su Facebook ti scrivo, quando sei a Londra. Ma posso dirti? le mie cose. Stamattina le mandate io. Buongiorno. Ma io non sto, io non sto 24 ore attaccato a Facebook. No, vabbè, io ogni tanto ci scappo che cinque ore davanti, già mentre finivo all'ufficio. Non lo dire! Si scappa di loro! Ma non si può abbandonare il posto di... Ma come? Abbandoni il posto di lavoro, Rambo! E c'è, no, là dentro io! Non si scappa nella stanza, non c'è computer! Se si da fare i giocatori o che cose, piacere, me ne scappa, si scappa 5 minuti! Vamo, Rambino! Ma io posso fare il numero 2, io devo stare libero! Tu sei il numero 1, tu sei libero! Senti, ci sentiamo domani? Oh, la voce non è niente! Ora ti metto il disco che piace. Oggi saluto, ti leggo con più allora, falli, tu. Falli, tutti presenti sono. Inizia a fare, vediamo se te li ricordi, non devo fare. Ciao niente. Nadia, ciao va. Sorella, vai. Ciao Lucia, vai. Luce, Isabella, va. Ciao! Vai! Poi c'è, Simone, va. Ignazio! Silvia! Silvia! E poi... Gerardina! Bravo! Rosi! Vai! Angelo! Vai! E tutte quelle che posso dimenticare! Stavo bene, ero solo con gli amici. È un tratto tu, sì tu, spiegami perché, da quando ho incontrato te, tutto è diverso. Non volevo più restare a pensare alla mia vita. Non volevo, perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita. E adesso guardami, sulla pelle. Tu scivoli pian piano, e anche se cerco di scappare invano, mi allontano dalle stelle. E adesso guardami, dicevo, sono più forte di te. momento ritorno questo di Gianluca Grignani, Natura Umana è il suo nuovo singolo. Noi siamo arrivati quasi ai saluti finali, l'ultimo disco e poi dovremo lasciarci. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Questa ormai è diventata un po' la sigla, anzi la colonna sonora del mio carissimo amico collaboratore Spalla. Che delizia. E tant'altro, Rambo. Michele Telo! Allora, stiamo per l'ultima notizia, perché potrebbe risultare importanti per alcuni, perché ci sono dei ricercatori dell'Università di Los Angeles che avrebbero trovato una sostanza antisbornia. È la molecola DHM derivata da una pianta asiatica, si chiama Obenia dulcis. Esperimenti condotti su ratti hanno infatti dimostrato che le bestiole preventivamente ubriacate con dosi massicce di alcol si riprendevano dalla sbornia dopo circa 70 minuti. I ratti a cui era stata data la molecola si riprendevano in appena 5 minuti. Quindi la differenza da 70 minuti a 5 minuti. Altra prova effettuata è stata quella di mettere ratti ubriachi in labirinti. Quelli che non avevano assunto il DHM vagavano senza meta, gli altri recuperavano subito lucidità. Secondo la dottoressa Jing Liang, questa molecola sarebbe anche capace di inibire il consumo di alcol. Hai capito? Va bene, signore e signori, ladies and gentlemen, a questo punto devo salutarvi, ringraziarvi come al solito per esserci stati, grazie per i tanti messaggi, grazie perché avete partecipato attivamente al programma, chiedendo soprattutto la vostra musica, che è una cosa importante. Noi ci ritroveremo ancora domani. Domani sarà l'8 di febbraio. A questo punto è tutto. Signori, alla prossima, un bacione. Bye, ciao.